Sul tuo cuore c'hai mettuto una panze, e perché ce l'hai mettuto? Se non sbaglio l'ho capito, mi vuoi dire, oh, bella vada, che tu pensi sempre a me. Che belle panze che tieni, che belle panze che hai, me la dai, me la dai, me la dai la tua panze. Io ne tengo un'altra in petto e le unisco tutte e due, panze mia, panze tua, in ricordo del nostro amor. Me la dai? No! Me la dai la tua panze. Io ne tengo un'altra in petto e le unisco tutte e due, panze mia, panze tua, in ricordo del nostro amor. Panze mia.